5A. Ascolta e rispondi. Chi scrisse la Divina Commedia? Fu Dante Alighieri che scrisse la Divina Commedia. Chi scoprì l'America? Fu Cristoforo Colombo che scoprì l'America. Chi fondò Roma? Fu Romolo che fondò Roma. Chi inventò il telegrafo? Fu Guglielmo Marconi che inventò il telegrafo. Chi furono i primi filosofi al mondo? Furono i Greci. Chi furono i primi matematici al mondo? Furono gli arabi. Chi furono i primi astronomi al mondo? Furono i babilonesi. Chi furono i primi astronauti sulla Luna? Furono gli americani.